programma è in collaborazione con stymusic.com. Viaggi del lupo. E iniziamo con una nuova puntata di Wolf Trips. Questa è la nuova numero 19. Buonasera Tony, finalmente ti ritrovo. Ti ritrovo qui in radio perché da un po' che manchi. È saltata una settimana. Sì, no, scherzo. Mamma mia. Mi è saltata una settimana per la neve, pensate. Ogni volta mi sembra strano dirlo sta cosa, sì, qua. Poi col caldo che fa adesso. Cioè, veramente, se abbiamo saltato una puntata per la neve, adesso si muore di caldo. Cioè, questa settimana si schiattava di caldo. Va bene, no? Questo programma è Wolf Trips. Noi andiamo un po' alla ricerca della musica, essenzialmente delle net label, però poi facciamo anche varie variazioni di genere, di stile e un po' di tutto. Infatti questa sera avremo un ospite, ma non sveliamo nulla. E iniziamo subito ad ascoltare un po' di musica. Poi daremo anche i contatti. Sì, sì, sì, adesso così almeno ci sistemiamo un attimo, che siamo arrivati, siamo entrati e siamo entrati subito in diretta, quindi un attimo di calma e di pausa. No, volevo salutare, prima di iniziare, un po' di ragazzi con cui stiamo collaborando, che sono il sito di Stime Music, che abbiamo messo anche il jinglettino, e Indie for Bunnies, che ogni tanto ci pubblica un po' gli articoli, ogni tanto gli mandiamo il pezzo della settimana, che quindi dovremmo anche scegliere oggi, così almeno ce lo pubblicano e ci promuovono anche un po' di musica nuova, particolare nuova. Iniziamo subito con l'etichetta Da Records, che è un'etichetta molto particolare. Si chiama così, Da Records. Non mi guardare storto. No, beh, come record è normale una label. E loro producono, sì, infatti. Ma è scritto in modo particolare. Infatti poi vi consiglio di andare a vedere la tracklist, perché sempre sentire i titoli da me e poi andarli a leggere e cambia tutto. Non si capisce mai niente. E effettivamente adesso sono un attimo in difficoltà, perché vabbè, come dimmi, caspita adesso, si leggerà adesso. Questo qua allora. No vabbè, ma dai, ma sarà Nothing is Real, dai, okay. Ci sarà così. L'autore è Nothing is Real e 1000 Degree. Sì. Degree, che non mi ricordo cosa vuol dire, ma boh, andiamo a cercarlo. Mi sfugge. Anche stasera generi molto diversi tra meno loro male, e partiamo con un po' di hip hop mezzo soul, dai, mettiamola così. Just like a piece of sizzling, your fit inside my stomach with the exit grip between. King is what I mean. Me, my man, get a cup and put some change inside your hand. Now hold up, let's make this official. Everybody let's agree that I just need a tissue. The phone's my only issue. I bet your mama miss you, and I bet the Mac that go off like an MX missile. No more you whining on the charts climbing as I make the phone kick it out more harder than a diamond. And if you didn't know who's rhyming, I guess I'm gonna say Craig Mack with perfect timing. You won't be around next year. My rap's too severe, kicking my flavor in your head. Here comes brand new flavor in your head. Time for new flavor in your head. I'm kicking new flavor in your head. Back brand new flavor in your head. Craig Mack, 1000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning dragon fleas. But the freeze, man's in the spirit of this deep rooted folks smoke the leaves and brains. Bad MC, stamina like Bruce Jenner, the winner, I'll take some MCs for dinner. You're crazy like that glue, that think that you get out, do my 1-2, that's sick like the flu. Boy, I flip boy all the time, like cause boy, trying to kick your legs worth a dime. Too much, there's no competition in this rap world expedition. You come around and knock down position. No blame, could ever dig a grave. The back of power packing black, make you see back crap. And here comes a brand new flavor. Yeah, back brand new flavor in your air. Time for new flavor in your air. I'm kicking a new flavor in your air. Back brand new flavor in your air. Se volete anche mettere le cuffie non sarebbe male, visto che siete forniti di cuffie. Ah no, no, stesso. I DJ suonano senza cuffie. Ma smettilo, ma smettilo, smettilo. Comunque sono viva, ciao a tutti. È tornato. Anche lei un'altra tornata. Sì, sì. Sono state delle defezioni settimana scorsa, anche te. Delle infezioni. È vero. Bene, ho ascoltato un po' di musica da inizio serata, dai, ci sta come inizio puntata barra serata. Soft, molto soft. Bah, sì, dai. A me non dispiace. Ieri era San Valentino. Stasera dei single, però. Vabbè. Allora festeggio stasera. Ecco. Magari. Già. Io ieri non ho festeggiato, a parte che non c'ero, quindi. Vabbè, io l'ho festeggiato giocando a tennis, quindi figurati, il grande festeggiamento. Hai scambiato due battute con qualcuno. Già, infatti. Lanciamo i contatti, visto che sei tornata, fai il tuo lavoro, fai qualcosa di utile, renditi utile. Allora, ti devo rispondere già subito un vado via e chap così? No, vabbè. Ok, comunque, allora ci possono scrivere su WhatsApp al numero 340-100-3617. Ok. Oppure sui vari social, Instagram, Facebook, c'è anche la diretta Facebook. No, stasera no, ancora non, purtroppo non è partita ancora. Siamo in attesa che parta, ecco, siamo un attimino bloccati. Quindi, però in realtà attendiamo. Ci possono ascoltare dall'applicazione di Radio Lupo, dal quale invece trasmettiamo. E invece se ci ascoltate in podcast, già che ci siamo, ci potete ascoltare sia in altre radio sparse per il pianeta, mettiamolo così, oppure dai nostri siti tipo Mixcloud o Spotify, sì, o la qualunque, dove esiste un podcast nel, ci siamo anche noi. Nel Facebook Wolf Trips. Nel Facebook è bruttissimo, detto così. Su Facebook, ecco, su Facebook trovate magari tutte le informazioni del caso. Sono un po' meglio sul Facebook. E invece vedo che Tony non mi ascolta. È lì che non so cosa sta facendo. Sto guardando dei documenti ultra segreti. Ah, ok, ho capito. Allora, intanto che tu spulci i tuoi documenti ultra segreti, continuiamo con un po' di musica dalla dubphonic. Quindi saltiamo dall'hip hop al dub, giusto per non farci mancare nulla. Sono anche c'è un minimo di connessione c'è. E è un brano della dubphonic, dicevo, il brano è di Culture Horn con Rootsman Dub, quindi direi che è proprio il titolo, più di così si capisce che è dub, ecco. Okay. E niente, un brano così un po'... Ho suggerito un gruppo italiano. Non volevo fare il sapientone alle spalle altrui, quindi non lo dirò. No, non è vero, mi è stato suggerito... cos'era? Gotham Project? Sì. È stato suggerito, ho detto non voglio fare il sapientino, dai. Hai visto che c'ha il pennacchio? C'è il pennacchio. Ho dormito storto stasera. Ma come una volta, avevo la cresta. Sì, c'è il crestino stasera. Donny Blanco. Vabbè, mi prendete sempre in giro. Mi prendete in giro per le pronunce, No, insomma, cioè, io non lo so. Chi è che ti prende in giro? Nessuna intenzione. Intanto dobbiamo aspettare anche l'altro Fabio che dovrebbe arrivare. Uno dei due Fabio l'abbiamo perso, ce ne rimane uno. Vabbè, ma tornerà l'altro? Sì, uno credo dei due... che lavorerà. Ah, ecco. Ah, lavoro? Penso di sì. Certo. Buon per lui, dai, buon per lui. Va bene, intanto tra l'altro stava anche preparando un po' di jingle, un po' di robe particolari, quindi lo aspettiamo, dai. Vedremo un po' che cosa ha preparato in questo periodo di assenza. Salutiamo anche il magazine Viva Mag che... Sì, tra l'altro a breve uscirà un altro articolo che ho fatto una recensione di un album, che cosa che sai che non ero molto avvezzo a fare recensioni. Ho deciso ci provo e non è uscita male. Sicuramente qualcuno non l'ha letta ancora, diciamo come revisione di bozza, quindi sarà piena di errori. Di strafalcioni in italiano. Sì, perché non ho avuto tempo, scusatemi sta settimana, però mi rifarò nel fine settimana. E tra l'altro metteremo poi un brano anche di quell'album, perché l'abbiamo anche condiviso, molto particolare. Sì. Un progetto un po' particolare. Invece adesso continuiamo sempre con il nostro giro nel 1000 etichette, net label e quant'altro, con la net label russa Control, che io conosco. Sì, che effettivamente produce veramente della musica interessante. Andiamo ad ascoltare un brano che avevamo forse, non so, mi ricordo se abbiamo già ascoltato questo brano in particolare o qualcosa comunque sempre estratta dal produttore. Comunque il brano è di A Bit Advanced Music, quindi un tocco di musica avanti, potremmo tradurlo. A Bit, come lo traduci? Sì, potrebbe essere anche un battito. Sì. Un battito. Sì, e il brano si chiama Gatekeeper ed è con Alina Goltsova, che penso che proprio dal nome dovrebbe essere della zona. Di Capri. Sì, sì, infatti. You're gonna kill. Allora, devo dirti la verità, questo è un po' più scuro dell'altro brano che abbiamo ascoltato. Il genere è prettamente trip hop. Perché ridi ogni volta che dico trip hop? Cos'è che non ti piace di trip hop? Il trip pop. Trip hop. Vabbè, ok. È vero, perché sono detto così sembrerebbe trip hop col pop, invece no, è trip hop, è vero. È giusto, hai ragione. Non lo so, è un po' una cosa così. Che teorie che avete. Trip hop e fagioli, non so. Trip hop. No, è bello perché uno fa il programma serio, no? Cerca di, diciamo, introdurre un po' di musica, no, seria. Il tuo inglese che supera... supera ogni limite proprio, cioè... il mio inglese è limitato, è così, dovete prendere o lasciare, diciamo, è così. Ah, perché è pure limitato? Sì. Non sì. C'è proprio qua. Vabbè, io veramente non so cosa dire questa sera, mi state proprio distruggendo. Io direi che... ma sto Fabio... Dove, Fabio? L'altro Fabio, dove caspita è finito? Cioè ogni volta mi dice no, arriva alle 8, arriva alle 9. Quando caspita arriva io non lo so. Come dico gli inglesi, waiting. Waiting, vabbè, aspettiamo. Si fa desiderare, un po' come... È peggio delle donne, io direi che è peggio delle donne. È peggio delle donne ed è peggio anche, sai, quelli che quando tu sei lì ad aspettare un artista che dici no, adesso arriva. E poi inizi che ti sembrano interminabili, non arriva più. E poi sta 5 minuti sul palco. Sicuro, perché è così, Fabio. Fabio, ti devi muovere. Ti devi muovere. Va bene, continuiamo con la Dusted Wax Kingdom, che è la nostra etichetta ormai, una delle nostre preferite, Tony, no? Abbiamo messo non so quanti pezzi, quanti sì, brani. Sì, praticamente sei stato assunto dalla sì, mente. Sì, in realtà loro mi pagano, non è vero, per mettere i loro brani. E questo brano è di King Shy con Shiver. L'avrò detto giusto? Sì, sì. Yes. Fit Bonza. International. Chissà qua. Chi è. Thank you. Allora, come dice l'autore sulla sua pagina, From Siberia with Love. Quindi è un pezzo freddo. Semifreddo. Semifreddo. No, no, è bello freddo questo pezzo qua. No, a me non è dispiaciuto. Lo so, magari a voi non piace, però è il mio genere, diciamo, preferito del periodo, del momento e di tutto quanto. Lui viene comunque dalla Siberia, sì, esattamente da Omsk, che non so che cosa sia, che cosa voglia dire. Non lo so, perché la Siberia non è piccola. No, infatti. Sarà un paesino. Sì. Può essere. Tra l'altro ha veramente iniziato a produrre da pochissimo, e il fatto comunque che scelga anche di produrre tramite Net Label può essere un punto a suo favore, abbiamo visto, per farsi conoscere. E tutto sommato anche su un'etichetta anche molto famosa, nulla da dire su questa etichetta. Quindi, tra un'etichetta enorme, cioè diciamo una delle preferite di Wolf Trips, passiamo a un'altra. Quale potrebbe essere, Tony? La bellezza di Brooklyn. Ah no, c'è anche lei. No, in realtà sempre da inizio serata ci ascoltiamo invece un brano della Block Sonic, che vabbè, sempre un'altra. Ormai vi ho tempestato le orecchie con questa musica. No. E questo invece è un brano più sull'hip hop. Ritorniamo un po' sempre al genere un po' più hip hop, anche un po' più underground. E questo è il brano di H Creative. Oh, io ve lo dico così. E Gotta Be For Something. Lo dico in inglese, CM. CM, va bene. Andiamo a ascoltarlo. But listen, throw you in for just a millisecond. Still like the mics, the illest tech. With my skills, still learning how to perfect my wreck. You beat my goal from the beginning and now. I got some cats like wow, dude, I'm digging in style. But yo, my mental's on another plane, hardly ever seen. And my brain is something that I train and never fall for green. Through my window, I can only see a speck of reality. Eyes closed, I can see different realms in other galaxies. So what I do's for everyone, I put that on everything. I'm not a limelight seeker, so you can keep all the fame. And I would love for music to put me comfortably financially. But if it had to be, I have no problem giving you music for free. Through the good and the bad, all the noise and the pros, dealing with the unknown. It's gotta be for something, right? All the sacrifices we made in our life, even dealing with the strife. Yo, it's gotta be for something, right? All the good we ever done, all the bridges that we burn, all the lessons that we learned. It's gotta be for something, right? Life's a strange journey, we all go through it. Some more than others, but it's gotta be for something. Impose my will against those who chose to go against my flow. I know it's kinda bullish, but I gotta stand behind my growth. Cause what I promote is hope, hard work, and integrity. What I'm a man, flaws and all perfection don't exist to me. I humble myself no more, trying to go on a cheddar spree. Spend until I'm broke, the one about the rest of the week. Eat, sleep, breathe, that's something that I believe in. Maintain stability is something that I'm now achieving. Grown man mentality, work hard regardless what the salary is. Forever toward my goal, I handle in my biz. I got fam in the trenches when we born to get dirty. Filthy fingernails and funk, I squeak past the garden early. I'm not a pretty boy, so when things turn and get ugly, I stand my ground, roll with the punches. I know my function, so as I weather the storm, stay low, shift my way. Patience is the key to unlock the gate to do great. Through the good and the bad, all the noise and the pros, dealing with the unknown. It's gotta be for something, right? All the sacrifices we made in our life, even dealing with the strife. Yo, it's gotta be for something, right? All the good we ever done, all the bridges that we burn, all the lessons that we learned. It's gotta be for something, right? Life's a strange journey, we all go through it. Some more than others, but it's gotta be for something. Through the good and the bad, all the noise and the pros, dealing with the unknown. It's gotta be for something, right? All the sacrifices.

E torniamo in diretta con il brano di Double Precision o Precision Rebirth. E abbiamo questa sera in, con noi ospite Plasman dall'etichetta 51 Beats. L'ho detto giusto, eh? Non mi fare la solita cosa. Ciao, buonasera a tutti. No, si dice 51 bits o lo diciamo all'inglese? 51 bits. Te pareva, me ne vado, io me ne vado, me ne andrei. Giuro di aver sempre detto 51 bits anch'io, anzi anche male a volte, quindi... No, perché 51 poi, bits. Quando mi hai fatto l'intervista l'altra volta, mi contestavano il fatto che io dicevo 51 pizz. Nel senso, però in realtà no. Se è una bella pizzata, ci sta. Se sono 51 pizze, non è mica male, direi. Vabbè, la vostra è una, in realtà, una bella realtà italiana, devo dire la verità. Grazie. Perché allora mi ricordo vagamente, siete partiti come Net Label e poi il sito si è un po' ingrandito, la cosa è un po' cresciuta e adesso state facendo delle belle produzioni come questo che ci hai portato questa sera. Quest'ultima che è uscita il 25 di gennaio. E sì, è vero, abbiamo iniziato come Net Label, quindi con download gratuito e condivisione massima dei contenuti pubblicati. A un certo punto abbiamo fatto anche altre cose, abbiamo anche pubblicato dei vinili, abbiamo fatto dei CD, abbiamo fatto delle cassette, abbiamo un po', diciamo, allargato la questione anche ad altri formati, però diciamo che lo spirito è rimasto un po' quello della condivisione gratuita, quindi... Producete ancora qualcosa come Net Label? O... Qualcosa come Net Label, sì. Questo disco in particolare in realtà è finito anche sui portali cosiddetti commerciali come Spotify, eccetera, però prima di questo il disco di Anna Sent... Sì. Era distribuito in Creative Commons, completamente gratuito, anche il download gratuito del formato, diciamo, WAV, quello ad alta risoluzione. Diciamo che abbiamo deciso come politica, diciamo, dell'etichetta di lasciare libertà all'artista nella scelta della pubblicazione, quindi noi ovviamente come label e come editori abbiamo modo, dopo tutto questo tempo ci siamo costruiti tanti, diciamo, canali per poter soddisfare anche le esigenze di chi vuole pubblicare per noi e che, giusto, insomma, che ci manda i dischi, che riceviamo sempre tantissimi dischi e soprattutto da artisti debuttanti, sconosciuti, e quindi magari, come del resto anche Double Precision, che è appunto un ragazzo di Como che è al debutto e quindi è una cosa completamente nuova. Beh, ci ha mandato il disco, molto giovane, un ragazzo molto giovane che abbiamo poi conosciuto anche personalmente, ovviamente. E insomma, ci piace fare questa cosa di scoprire cose nuove. Bello. Facciamo così, ascoltiamoci il prossimo brano, poi dopo ci dai qualche altra informazione, magari sui generi che produce, qualcosa in più, certo, qualche chicca in più su di lui. Il prossimo brano è Living. Andiamo ad ascoltarcelo e vediamo anche che genere fa. You should. questo è un altro brano di Double Precision con Living. Quindi il genere, possiamo dire, possiamo affermare, abbiamo ascoltato due brani sulla drum and bass. Sì, un po' sulla drum and bass sicuramente. Lui spazia un po', fa queste atmosfere. La cosa bella secondo me dei suoi pezzi è che sono sempre molto in evoluzione, molto evolutivi. Pezzi abbastanza lunghi in cui lui all'interno dello stesso pezzo tende a spaziare un po' sui generi. Questo in particolare, sì, sicuramente drum and bass, jungle, EDM, a me ricorda un po' Square Pusher, sì, o Boards of Canada, comunque diciamo, sì, la, sì, Warp, sì, Records. Lui vabbè è un, secondo me è un bravissimo sound designer, quindi... Infatti ti volevo chiedere, perché il suono è perfetto effettivamente. Sì, e lui studia come ingegnere del suono, attualmente sta studiando a Bruxelles, e si vuole, insomma, dovrebbe laurearsi a breve in sound ingegneria del suono, e quindi è veramente, da questo punto di vista, cioè, è veramente super tecnico. E i pezzi secondo me risentono anche di questo, cioè nel senso che lui non si accontenta mai di esprimere un genere solo, ma gli piace proprio costruire delle realtà, insomma, che si evolvono. Perfetto, perfetto. Intanto salutiamo Fabio che è arrivato, che irrompe nel, sempre quando arriva l'intervista o l'ospite arriva. Come dici te, irrompe. Io sono il rompivalle. Non hai ascoltato ancora, perché lui solitamente è un po' la parte, come si può tecnica. Dire? No, ma non tecnica, sì, non sì, tanto musicale. Musicale, ecco. Quindi adesso si ascolta, adesso il prossimo brano che andiamo ad ascoltare, te lo ascolti bene e poi farei sicuramente una domanda. Sicuro. Però non è l'autore lui, hai capito? Non è che devi fare una domanda. Non sono l'autore, però io. Però magari ti può rispondere. Allora, non prometto niente, però ecco. Ascolterò con attenzione. Ascoltala con attenzione. Mi raccomando, come la foto quella lì dove sembra che stai dormendo, in realtà stavi ascoltando con attenzione il brano. Andiamo ad ascoltare, quindi Not Enough. Mi sono impappinato, vai. Rocks. Questa è? Sì, sì. Not Enough Rocks. Ok, ok. E poi dopo torniamo a parlare un altro po' con il nostro ospite. Thank you. questo era un assaggio dell'EP di Double Precision, perché ovviamente i pezzi sono belli articolati e effettivamente cambiano spesso, quindi potrei dire proprio un assaggio, perché poi dopo uno, sì, se poi dopo vuole andarsene ad ascoltare, può andare sul vostro sito, sì, giusto? Sul sito 51beats.net c'è la pagina dedicata all'artista e la pagina della pubblicazione che si chiama The Path. E poi ovviamente ci sono i contatti diretti con l'artista, che ha la sua pagina Facebook e la sua pagina Instagram come Double Precision. Ok, ok. Lo trovate. Perfetto. Comunque a me è piaciuto molto questo pezzo. Piaciuto molto, sì. Un po' tecno, un po' tecno. Sì. Mi piace al marito, ecco perché. Sì, no, mi piace. La musica così non mi dispiace mai. Guarda, non ti preoccupare, Tony, perché io e lui abbiamo gusti molto diversi. Quindi. Comunque, effettivamente rispecchia un po' quello che abbiamo detto, nel senso, vabbè, effettivamente la masterizzazione del brano è impeccabile. Ed effettivamente cambia, un'evoluzione, sì, dall'inizio alla fine, sì. Poi ovviamente vabbè, lo stile è quello un po' più ripetitivo della musica techno, quindi vabbè, ci sta, nel senso. Sì, questo pezzo in particolare sicuramente sì. Questo è un pezzo comunque, diciamo, che esce un po' dal canone del disco, ma in ogni caso sì, diciamo che lui è ovviamente un musicista elettronico e spazia un po' tra i generi dell'elettronica, tra cui ovviamente la techno. Allora, quindi tu dicevi invece il brano invece The Path, che è poi la title track dell'album, è quello che preferivi, giusto? Sì, direi che è il mio preferito, è un po' più UK, un po' più jungle. E sinceramente secondo me questo è anche un pezzo che è messo in un club oscuro, anche diciamo in questo momento in cui sta spopolando la trap o questi generi un po' spezzati, potrebbe funzionare, nel senso che ha dei giri di sample vocali, ha una ritmica spezzata, questo basso che gira, insomma, e poi in realtà finisce con, adesso poi lo ascolteremo, sì, finisce con questa atmosfera molto solare, no? Quindi diciamo che l'idea, credo, dato che non gli ho parlato direttamente, però sì, credo che sia quella del sentiero che a un certo punto arriva verso la è luce. The Path, quindi sì. Tra l'altro effettivamente stavo guardando giusto il sentiero verso la luce, stavo guardando la copertina, quindi ci potrebbe stare la logica del sentiero verso la luce. Bella. Quindi vi invito ad andare a vedere la copertina, che poi magari la carichiamo anche sul... Sì, però a me non è che vedo la luce. E come non vedi la luce? Sì, no, non abbiamo... Toni, mettiti gli occhiali, perché no, la luce la vedo, ma non è che ci vedo questa speranza di uscire. Diciamo che è un disco un po' oscuro, effettivamente. È un po' oscuro e... Infatti, cosa vuol dire? Il percorso, il sentiero. Okay. Non lo sapevo. Va bene, dai, andiamo ad ascoltarlo. No, ti volevo chiedere un'ultima cosa invece su di lui, intanto che sentiamo sotto il brano, ma poi ce lo andiamo ad ascoltare tutto. L'hai sentito suonare live? Suona live? Una cosa, una mia curiosità questa. Allora, live fa dei DJ set che sono più che altro drum and bass. Ok, in giro. Ok. Attualmente però, appunto, essendo lui diciamo a Bruxelles, non credo stia facendo dei live. Comunque in ogni caso abbiamo in mente di creare, diciamo, un evento per lui a Como con dei ragazzi con cui collaboriamo. Questo evento cui... sai chi invitare. Bene, tanto noi a Como ci veniamo anche abbastanza volentieri, quindi tutto sommato sì, vi comunicheremo comunque sui nostri canali la data, che adesso stiamo un po' decidendo. Va bene, andiamo ad ascoltare The Path. Chiudiamo con l'intervista per l'artista Double Precision, e se vuoi restare facciamo ancora un po' due chiacchiere sull'etichetta 51 Beats e anche un po' di varie eventuali. Volentieri, grazie. Yeah. www.mymusic.com. Wolf Trips, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. In diretta con questo brano molto, come possiamo dirlo, funky, boh, non so come, no, funky, scusami, funky. No, ho sbagliato, no, vabbè, qualcuno brano... della radio che non conosce le... no, vabbè, vabbè, mi sono sbagliato del genere, come lo possiamo definire? Reg. Ma no, reg, non lo so, boh, non lo so, sì, beh, un po' funky era, però funky reg, electro dub, sì, switch, sì, sì, bros, più, ok. Il brano, penso un po', è l'EP, si chiama Love EP, perché comunque, vabbè, era l'EP, l'EP, non lo vedi lì. Il titolo è I Feel Good, che lo dice anche il tizio che canta sotto, che lo sentiamo ancora che canta. E lui che canta si chiama Noise Fever. Fever, cos'è che voleva dire febbre? Febbre. Quindi febbre da suono, Noise Fever. Noise, noise è rumore, suono, come lo vogliamo dire. E l'etichetta dal quale ho estratto questo brano è la Cavi Collection. No, Collective, scusami. che è un mostro di etichetta, nel senso che ha veramente tantissima musica in free download. Siamo arrivati alla 418esima uscita e è molto particolare perché vanno dall'old school, elettronica, l'IDM, l'ambient. Ve la consiglio perché è veramente una bella net label. Non mi ricordo. Vedi, mi fai sempre queste domande a trabocchetto che poi dopo non riesco mai a uscirne. È pura curiosità. E te vai a cercare. No, non lo so, non lo so. Adesso magari dopo vedo di cercarlo e trovo un po' di informazioni in merito. Intanto, allora, il nostro ospite è ancora qua in giro negli studi. No, sì, ecco, sì, li vedo lì. Sono andati a farsi la pausa sigaretta e rimangono fuori, caro Tony. È così. Allora, andiamo a ascoltarci il prossimo pezzo, che è di Occam. Sì. Con The Ark. E io pensavo che fosse il gruppo. È vero. I fantomatici The Ark, che erano veramente molto in voga e molto belli. E cioè, non lui non era bellissimo. Perché... No, lui non era bellissimo. E lui si sa che. A me la musica piaceva veramente molto. Sì. Beh, comunque, loro invece questo brano di Occam con The Ark è da un'altra net label molto in voga ultimamente, che è la Enough Records. È scritto Enaug, quindi sarà Enough. Enaug. Sì. Musica elettronica allo stato puro. Torniamo un po' all'inizio di Wolf Trips, con questa musica un po' più elettronica. Diceva, un po' molleggiante. Molleggiante. Questa è proprio da club, non lo so come la definirei. Intanto volevo fare un'altra domanda a Plasman, visto che è rientrato anche lui, ti sei fatto contagiare dalla pausa. Sì. Dalla pausa lunga. E no, ti volevo chiedere, con la vostra etichetta 51 bits, prima stavamo facendo due chiacchiere e mi hai detto che state facendo delle produzioni con cassetta, no? Sì. E ti volevo chiedere, ma quindi è una cosa che sta prendendo tanto piede questo? Cioè come ritorno un po' del vinile, potremmo dire, no? Sì, sì, secondo me, vabbè, è chiaro che è un oggetto che non può avere una grande diffusione come quello che ha il vinile o il CD. Però diciamo che è sicuramente un bel modo di presentare i dischi. Quindi in realtà, più che diciamo un vero e proprio contenitore musicale, secondo me è bello proprio come oggetto. Hai un qualcosa di fisico. Sì, esatto. Io credo che lo scopo sia un po' quello. Costa molto poco la produzione di cassette e quindi insomma è un modo economico per dare anche un supporto fisico alla musica che si fa. Quindi si ritorna al registratore di cassette. Il registratore di cassette, sì. E alla penna. Alla penna. No, queste sono belle cose. È da un po' che stavamo vedendo un po' anche effettivamente anche un po' di Netlabel, oltre a rilasciare comunque il download gratuito su Bandcamp, mettevano in vendita o il vinile, per dire, o la cassetta. Sì. Poi ci sono anche le tape label, cioè in realtà vanno anche negli Stati Uniti, che sono etichette che producono esclusivamente cassette e che però non fanno distribuzione digitale. Cioè diciamo che è un po' una specie di controrivoluzione digitale che è un po' così. Ma punta su ritorno. Diciamo che probabilmente non può avere diffusione perché di fatto rimane una cosa di nicchia. Però è una nicchia, secondo me, interessante. Interessante, bravo, bravo. Dipende poi anche uno che tipo di sviluppo vuole dare alla sua passione. Perché poi alla fine è una passione. Cioè, nel senso, sei una major, ok, quello lo fai di lavoro e sai che devi fare. Però se la tua passione è produrre musica, anche come fate voi, no? Cercare artisti nuovi, trovare anche un supporto di nicchia è perfetto. Sì, sì, no, ma poi è interessante anche proprio cambiare i supporti e queste cose. E comunque devo dirti che il bilancio di 51 bits è ovviamente fallimentare. Questo 51 bits. Però ecco, posso dirti che nel 2018 51 bits credo abbia incassato più soldi dalla vendita di cassette rispetto a quella del digitale. Fantastico. Ti do questa informazione. Vedi. Quindi diciamo che c'è un buon contributo a questa storia delle cassette. Sì, sì, veramente sì. Fantastico. Sono ancora da due lati? Da due lati, certo. Giusto. Fantastico. Penso di fare lo spacciatore di cassette. Non esco di qua, ragazzi. Sono in giro con i VU compra cassetta. Ma te fai lo spacciatore delle cassette della frutta. Vabbè. Infatti, sono solo banane. Patate. Vabbè, dopo questa serie. No, però è un bel intervento, molto interessante. Anche mi piace l'idea comunque di aggiungere un po' di supporti diversi dal mondo digitale. Ma le cassette vengono prese. Cioè, ci sono ancora delle aziende che le producono? Sono dei fondi di magazzino? No. Sono cassette di nuova produzione. Ci sono stamperie di cassette che tipo. Dunque, non le marche storiche, ma. No, beh, ovviamente ci sono delle aziende piccole che fanno sia servizio di vendita della cassetta vergine. Sì, come i vinili. Okay. Che è duplicazione, quindi stampa anche dell'etichetta, della copertina. Ma il costo è un po' più alto perché comunque non si parla più di scala così industriale. Cioè, il costo è sì, sicuramente è un po' più alto, però non arriverà mai, cioè molto più basso rispetto a quello che potrebbe essere la stampa di un vinile, cioè il concetto è quello. E giusto per chiudere il discorso supporti, probabilmente quello invece del CD ormai mi sa che lo stiamo salutando, secondo me. Sì, probabilmente ha un po' stufato, mettiamola così, secondo me è un po' stufato. Probabilmente sì, perché forse è diventato un po' noioso, boh. Ma perché è uguale cioè alla fine la fedeltà è la stessa dell'MP3, la qualità non cambia. È più difficile da, diciamo, tenerlo, perché poi dopo, sai, si rovina, è il calore, è vero anche il vinile, la cassetta, però no, non penso che una qualità di un CD con un MP3 possa essere paragonato. No, è paragonato. Cioè, con il formato Wave. Sì. Ma chi è che scarica il Wave? Cioè, comunque diciamo non c'è molta differenza da viva il CD anche. Ma no, ma buttatelo via. Vabbè, ho pareri contrastanti. Butti i tuoi allora. Sì, sì, sì, sì. Guarda, li sto mettendo lì nella spazzatura, se volete andarli a prendere qui in radio. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è di Matti T con Glow. Etichetta è Phono Cake. Questo era il brano di Matti T con Glow. Beh, dai, sul genere un po' più techno. Stasera ci siamo spostati più sulla techno. Tra l'altro, questa etichetta è, non vorrei dire una spilata, ma mi sembra che sia portoghese. E avevamo già ascoltato un sacco di roba, anche perché hanno prodotto molti italiani. Tipo un ragazzo Push Again New Fakes, che avevamo ascoltato un bel po' di tempo fa. No, no, c'è una parola, un nome Teppana che vi ricorda. Sì, sì, sì, sì, è sempre prodotto da Phono Cake. Infatti volevo farti una domanda così un po' curiosità mia, sulla questione delle net label, nel senso, la vostra esperienza come net label, ormai so che ho parlato l'altra volta con Roberto, mi diceva che poi alla fine ha visto che c'è stato un po' un calo sul mondo delle net label, anche perché si è chiusa poi una rubrica che parlava proprio di net label su un giornale anche abbastanza famoso. Tante net label sono chiuse. Io devo dirti la verità, facendo il programma sto trovando tanta roba nuova, però volevo capire un po' anche tu cosa ne pensi in generale. Ma dunque, io credo che le net label, secondo me, insomma, la ragione era quella della condivisione gratuita e del Creative Commons, quindi della completa disponibilità dell'artista che decideva di condividere con tutti gratuitamente la propria opera, che è una cosa bellissima, che secondo me continuerà in questo modo. Il problema è che forse questa cosa non si coglie più, dato che tipo per esempio Spotify lancia la sua piattaforma con lo slogan musica gratis ovunque, e questa cosa che poi non è vera, perché ovviamente Spotify ha pagamento e c'ha le pubblicità eccetera, non ha fatto altro che appiattire, diciamo, le due dimensioni, e quindi forse non si nota più così tanto la distanza tra quello che è lo streaming su un portale, diciamo, commerciale come iTunes, Spotify e tanti altri, e diciamo lo streaming free e il download free, tipico dello spirito net label. Quindi in realtà non dico che il fenomeno net label sia morto. Per quanto ci riguarda, come 51 Bits abbiamo deciso di fare un po' tutto perché ci sembrava interessante fare così. Dopodiché in realtà siamo sempre rimasti molto legati all'ambiente. Dopo gliela registri la pronuncia, così sì, così imparo, così di notte. Imparo per i prossimi pezzi che passerò vostri, me lo dirò. Questa è l'etichetta. Mettiamo lo stacchetto, il jingle. Vero. Questo brano è dell'etichetta e metto il jingle nella sua voce. Ah, ti volevo chiedere, quanta fatica si fa a tenere aperta adesso un'etichetta? Un'etichetta non net label. Net label in Italia. Diciamo che ci vuole un po' di tempo da dedicarci. Ovviamente per noi è comunque una passione. Siamo andati, diciamo, molto in là perché abbiamo fatto quasi 11 anni di etichetta, e quindi in realtà è una passione che abbiamo cercato sempre di far crescere coinvolgendo tanta gente. E quindi in realtà è anche impegnativa a volte, effettivamente. Ma anche dal punto di vista come contributi, cioè c'è anche un po' di spesa per tenerla aperta. Sì, abbiamo sicuramente delle spese che tendenzialmente riusciamo a coprirci un po' con quelli che sono appunto gli incassi della vendita dei vari prodotti fisici. E un po' anche organizzando eventi in generale. Perfetto. No, vedi, è interessante. Però volevo dire che noi adesso ultimamente stiamo passando tutti i brani dal 2018 al 2019 delle net label. Quindi c'è comunque, non tanto in Italia, però all'estero, soprattutto in Messico, devo dire la verità, perché in Messico ci ha regalato. E Russia, è vero, effettivamente c'è. Hanno scoperto, non so, o l'avranno scoperto da poco, non lo so. Però c'è molta musica nuova su net label, anche di qualità, effettivamente. Perché diciamo prima, la difficoltà è anche poi trovare musica di qualità, non è semplicissimo, effettivamente. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare, infatti, è estratto da un album che a me piace molto ed è di Formi, che è Formica in francese. Lui è un artista francese e questo brano è Bagan Party. E tra l'altro, adesso non so quando uscirà poi una mia recensione del disco, perché è molto particolare, è una specie di viaggio. Bravo, mi raccomando, continuiamo così. E, praticamente l'album è una sorta di viaggio dell'artista, in un viaggio fantasioso, un po' sembra quasi di essere in un mondo tipo Asimov, una raccolta, no, è veramente, veramente bello, ve lo consiglio davvero. Andiamo ad ascoltare quindi Bagan Party. Thank you. e oggi ci siamo lanciati un po' nella musica elettronica più varia. A me è piaciuto sto brano, te non lo so, secondo me non l'hai ascoltato bene. No, ma non so. Non è il tuo genere. Beh, hai messo due pezzi prima che... lo so, questa è un po' più elettronica, sì, sì, giusto che mettiamo un po' di tutto, sì, e anche i gusti possono essere vari. Infatti. Io invece volevo chiedere, avevo una domanda per il nostro amico. Domanda. Non si ricorda il nome. No, ma io tanto non me lo ricordo mai. Vai. Ecco, va che fai cadere di nuovo la bottiglia. Quindi io chiedo perdono a tutti quelli che verranno qua, ma io non ricordo mai i nomi. Non c'è problema. Volevo chiederti una curiosità. Come avviene la scelta degli artisti? Vi mandano il materiale? Siete voi che li cercate? Allora, sì, in linea di massima ci arrivano tantissime demo. Per cui noi abbiamo una pagina dedicata, diciamo, una mail dedicata, che è appunto su cui ci arrivano parecchie demo da tutto il mondo. Tendenzialmente, chiaro, poi abbiamo, diciamo, dei generi che preferiamo piuttosto che altri, ma ascoltiamo tutto. E la cosa interessante appunto è che ci arriva tanto materiale da persone che magari non hanno mai pubblicato, e quindi vabbè, è chiaro che lì l'ascolto è anche, insomma, difficile, perché magari sono anche cose che inizialmente possono essere prodotte un po' male, per cui se una cosa piace cerchiamo, dialogando con l'artista, di migliorare, trovare un punto d'accordo comunque. Sì, diciamo che in linea di massima comunque preferiamo poi avere anche il contatto diretto con l'artista stesso. Quindi chiaramente, se sappiamo che l'artista è raggiungibile fisicamente perché magari è italiano in qualche modo, cerchiamo comunque di creare anche un rapporto umano, oltre che solo... Ah beh, sicuramente, anche perché... Più bello, insomma. Sì. E volevo chiedere, avete proprio un metodo per la scelta, oppure avete, cioè, sulla base del materiale che vi mandano, se vi piace o no, è solo fin lì la scelta? Sì, il metodo praticamente è, siamo io e Roberto Robidat che scegliamo, e quindi chi ha braccio di ferro, il più forte di solito vince. Ci meniamo a volte, per cui no, sì, scegliamo noi due. Chiaramente cerchiamo di essere d'accordo entrambi sulla scelta. Quindi non avete degli standard? No, non abbiamo degli standard, deve essere una cosa che ci piace e che piace a tutte e due. E che è già fatta bene. Già è difficile, perché comunque siamo anche diversi tra di noi. Avete uno studio magari dove, magari, se ci sono dei progetti che qualcuno abita vicino a voi, che per perfezionare magari la... Sì, abbiamo contatti con degli studi di registrazione, per esempio il Blau Studio di Milano. In alternativa, comunque, io, diciamo, c'è un gruppo storico legato all'etichetta, che è fatto per esempio da Marcio McFly, da Pepe, da Robidat stesso, e ognuno di noi ha, diciamo, un piccolo studio a casa. Beh, sì, immagino. E quindi in realtà gli ascolti e alcune volte anche delle piccole post produzioni vengono fatte direttamente da noi. L'artista comunque accetta sempre il consiglio, cioè... Sì, beh, diciamo che non siamo così nazisti, poi alla fine facciamo scegliere a lui. Magari l'artista inizialmente, certo, ha paura che il suo lavoro venga un po' stravolto. Chiaro, no, cerchiamo di non essere così invasivi in realtà, chiaramente. Ok. Allora, continuiamo con un'altra etichetta, una nuova, diciamo, per Wolf Trips, che da un po' che non l'ascoltiamo. New Entry. L'etichetta si chiama La Belle, che è detta... che è un'etichetta italiana, tra l'altro, che infatti lui conosce. Sì, no, è abbastanza famosa. Vedi il logo, è questo qua, di questo cagnolino, si chiama La Belle, perché te lo leggi normale Label, in realtà è La Belle, quindi staccato. Spero di averlo detto giusto. E loro sono, diciamo, inglese. Che si divide tra Roma e BL, e producono molta musica elettronica, anche un po' ambient, se non erro, qualcosa allora anche sul trip hop. Quasi rivali con loro. No, beh, rivali, no, si conosce. No, secondo il mondo del net label non esiste tanta rivalità. Il brano è di Macchiato Funky con No Maggiore, un titolo un po' strano. Andiamo a ascoltare, vediamo un po' che cos'è. only IBM 92 and 18 and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. Dopo questa scena mi verrebbe da dire c'è una cartina. C'era la fasurolla. E non c'entra niente con la musica, tra l'altro. No, la musica è molto bella. Anzi, cercherò di contattare. Intanto uno, adesso l'abbiamo persa una. Cercherò anche di contattare gli autori dell'etichetta, magari per scambiare due chiacchiere con loro. E passiamo quindi da cosa che abbiamo detto, Roma, Biella. Passiamo a un'altra etichetta italiana che è la Edison Box, sempre net label, e loro invece sono di Cuneo, se non erro. Sì, di Cuneo. Anche quindi dietro siamo l'angolo. Abbiamo ascoltato diciamo un bel po' di musica loro e non devo dire, non mi dispiace, loro producono essenzialmente rock o comunque variazioni sul tema. Mi piace proprio. Quindi per quello che ti ho chiamato in causa. Sento così ci puoi... che si ravviva. Sì, poi l'altra volta ce l'avevi diciamo cassiato il pezzo, nel senso non era di tuo gradimento, però vabbè, vediamo questo, dai. E loro sono i Sonic Atomic, se non erro. Ah, pensavo che era un'altra. No, Super Invader. Io porca pensavo miseria. Che mettevi questi. Rinunzia a Satana. No, sai perché ho detto Sonic Atomic? Perché se andate a vedere la copertina, ditemi se non sembra una scena. Cioè lo sfondo mi sembra tanto, non so se l'avete mai visto, con Sonno. Ah, bello. Che è quello della città fantasma. Ah sì, delle parti di Lecco. Delle parti di Lecco. Secondo me sembra, mi richiama proprio quel. Sarà stata fatta anche lì, può essere. Infatti, la zona più o meno è la nostra. Tanta gente ha girato video musicali, quindi. Cioè, io ho solo paura a guardarlo. No, è bello, un bel posto in realtà. È un posto. Dai, fa vedere un po' la decadenza della nostra società, secondo me. Ancora peggio. Un posto che fa riflettere, così. In realtà non è, ho detto una stupidata, perché in realtà loro sono i Super Invaders, quindi non c'entra niente con quella copertina. Aveva catturato la mia attenzione. E il brano si chiama Space Zombie con Kill Kill Kill, quindi Super Invaders, Space Zombie, mi viene in mente, sai cosa, il giochino quello anni 80 del Space Invaders. Poi. E a me mi viene in mente invece quello che c'era su quel telefonino che costa tantissimo, Piante versus Zombie. Piante versus zombie. Vedi, noi che siamo dementi lo capiamo. Noi siamo ragazzi di più piccoli dei millennials, quindi sappiamo queste cose da giovani, capito? Tu sei vecchio, non ci posso fare non niente. C'è il capello bianco, sai cosa dice chi ha il capello bianco? Siamo in fascia protetta. No. Va bene, dai, andiamo a ascoltarcelo, poi dopo ci darei qualche tua impressione dai. Tecnica, ma anche negativa, non è che deve essere positiva per forza, non è che... Gustibus, come dico io. Va bene. Now, rumors of an invasion by outer space aliens have been growing all across this great land, from Manhasset to Maine. From every town USA, reports have come in concerning the appearance of flesh-eating robot zombies. Zombies from outer space. Abbiamo uccisi tutti questi zombie, space zombie. Tutti quanti. Va bene. Ti è piaciuta te? A me piaceva un casino, cioè no. Proprio il genere di musica che piacerebbe produrre a me. Sì, no, ma sono d'accordo. Allora, diciamo che ha un bel groove la canzone, cioè, sì. Ti tiene proprio bello molleggiato, come dico io. Poi mi ricorda, te lo dicevo anche prima, mi ricorda molto alcuni riff degli Arctic Monkeys, questo English della chitarra. No, bella. Dai, bene. A Tony è piaciuta? Sì, beh, è il genere che suonerei anche come DJ. Bene, facciamo un gruppo stasera. Allora, io suono la chitarra o il basso, scegliete voi. Ma io non so suonare nulla, mi dispiace, sono l'unico qua. Lui sa suonare il campanello. Ecco, tu suoni il campanello. E chi scappa? Tu. Va bene, quindi dai, approviamo questo brano della Edison Box. Approvato. Quindi adesso invece cambiamo completamente registro. Anzi no, prima di tutto ti volevo dire che è ora anche che ti prepari la tua mini rubrica, cioè, notizia. Siamo quasi alla fine, almeno una spara la dopo. Non ho trovato tante cose carine. Ce n'è una che potrebbe stuzzicare un piccolo argomento. Facciamo però. Così, ti do ancora tempo di un brano. Va bene, ma come me lo metti, rock o... No, cambiamo basta. Di nuovo genere. Stasera mi hai fatto dispiace. Contento, tipo basta, San Valentino, basta, no? Una basta. Volta l'anno e poi è finita. Basta così. Però come me lo metti? parliamone. Anche l'altra volta, senti, mi sa che ormai tra me e te è nata una love story da venerdì scorso. Settimane lasciati da soli. Infatti. E abbiamo combinato peste e corna, eh. Se vuoi andare a ascoltare la puntata come anche questa o le altre precedenti, sempre nel podcast, quello di Mixcloud secondo me è quello più facile da ascoltare, così come consiglio. Okay. E cambiamo genere, cambiamo zona, perché torniamo in Spagna nella net label Monofonicos, e è un brano misto tra elettronica, trap, non lo so, un po' di generi particolari, mischia un bel po' di generi. E l'artista si chiama Mala, che non so, non mi ricordo, forse aveva giusto con la trap Mala. No, però non è solo trap, diciamo, c'è anche un brano trap, l'abbiamo ascoltato l'altra volta e non ti era piaciuto, quindi ho dato, proviamone un'altra, vediamo un po' se magari ci riesco a trovare qualcosa di bello. E il brano si chiama This Is It, non mi ricordo adesso il genere preciso, però andiamo a ascoltarlo, poi vedremo un po'. Vabbè, dai, ho capito che a Tony questa musica qua non piace, a me non dispiace in realtà. Sì, ma anch'io da questo lato qua. Vabbè, ma voi siete dei... Ne abbiamo ascoltate di migliori. Secondo me, cioè... Siete... Ah, noioso no, però forse non è nelle mie corde, dai. Vabbè. A te dove? A me piace. Infatti ti vedevo gasato con la manina in alto. Facevo il millennials. Io sapete che è una musica un po' particolare, mi è sempre piaciuta, quindi... Solo la musica. Sì. Vabbè, quindi hai trovato questa notizia? Ma abbiamo trovato due o tre chicche, nel senso. Una cosa veloce spiccia, dai. No, vabbè, ascolta, cioè, qua possiamo aprire un argomento. Quanti di noi, direi io. Cioè, stiamo leggendo qua. Allora, notizia, il capitale è questo: divorzio dalla moglie dopo averla vista senza trucco. Ci sta. In effetti è vero, cioè, tu quando esci, no? Vedi le ragazze, no? Dici, però, è tusa, no? Detto in dialetto dalle nostre parti. Poi magari la vedi la mattina e ti giri e dici, che tolla! Maria Benedetta! Non sai se il nome finisce con l'acqua o no, in alcuni casi. Secondo me questi sono i tuoi sbagli. Sono i suoi sbagli quando va la sera nei locali, che beve. No, ma ragazzi, io adesso vi svelo, ho inventato una teoria, è anni che i miei amici ormai la utilizziamo. quando vai a ballare alla sera, no? Vai in discoteca, metti su un po' di musica, eccetera. Vai, ecco che ti muovi tutto, incominci e vai al bancone a prendere la prima consumazione. L'unica. Mi raccomando, bevete poco. No, comunque. L'unica perché è quella che ti danno con l'ingresso. Perché no, poi vabbè, basta. Ma se fai la serata almeno qualcosina la prendi di più. Allora, è la prima consumazione, sei già mezzanotte e mezza. Poi ti porti da bere da casa. Cioè. Passa mezz'ora e comincio a guardare i locali. Situazione 4 e mezzo, porta a casa qualcosa. Poi dopo. Vuol dire situazione 4 e mezzo? Che vanno tutte a cagare. Ah, non riuscivo a capire. Vedi, capello bianco, uomo d'esperienza. Cazzo. Verso l'una prendi il secondo drink. Al terzo drink, prendi il drink. Figlie. Prendi il drink, guardi attraverso il drink, verso l'altro. E si trasformano. Sono tutte bellissime. Cioè, tutte truccate come in questo caso, no? E anche se ti va male la serata, tu il giorno dopo hai un bel ricordo di quella ci serata. Pieno così. Ti dice, come è andata ieri? Ragazzi, fantastica. L'unico sano ti prende in giro per tutta la vita. Sì. Infatti è per questo che ho tanti iscritti nell'armadio, ragazzi. Vabbè. Ma avevi altre notizie o chiudiamo qua? Beh, ho visto che degli scienziati, non so dove, adesso poi la credo. Quindi era una cosa seria questa, no? Sì, noi diamo grande spazio alla scienza a Wallstrips, infatti sì. Abbiamo visto... Hai voglia. Come quella volta lì, no? Infatti... Comunque stavo dicendo che hanno voluto replicare, cioè studiare in primis e replicare la scorreggia. Ecco qua. Hanno studiato i batteri che ci sono dentro in questo oggetto gassoso. Io volevo dire, cari scienziati, se volete io gratuitamente un paio di campioni ve li lascio, perché tanto la mattina è sempre... Mi lascio una traccia. Cioè, io quando suono il campanello escono i batteri direttamente. Grazie per averci detto anche quando... Così non venite a rompere il cazzo la domenica mattina che dormo. Io ho quasi vergogna a mettere il prossimo brano, però vabbè dai, ma continuiamo. Tutto il podcast direi. Dovrò fare un po' di tagli, no, non è vero. Dai. Andiamo a ascoltare il prossimo brano che è di Little Bird con Interzone. È una tamarrata incredibile, sappilo. Da fedda, Play the fit. Stasera abbiamo un po' esagerato, dai, lo ammetto. Sì, dai, l'abbiamo fatta corta ma potente. Sì, era vero. A me manca, io devo sfogarmi e andare a suonare in qualche club come facevo anni fa, almeno poi sta musica qua non ve la propongo, quello è il discorso. Devi sfogare? Cioè, tu gli dici musicalmente, musicalmente parlando. Cioè, devi andare a suonare, tu come sei su un piatto d'argento, io non posso non battere il calcio di rigore. Porca cioè. Miseria, porca miseria. Qua. Bisogna stare attenti. Certo, poi sai che sono malandrino io. Tanto, allora, devo dire, lui è tanto malandrino. Poi al mattino, quando lo incontro in treno, 3 minuti e si addormenta lì. Così, no? Ma sì, ma perché la radio è una grande finzione. Cioè, ragazzi, io sono un prete, adesso ve lo dico. Ma che peggio la categoria del prete, attenzione. Mi chiamano Don Fabio. Beh, vabbè, io direi che... No, non so più cosa dire, Fabio. Cioè, lasciato senza parole. Poco la chiusura, meno male. Facciamo così, ascoltiamoci l'ultimo brano. Poi dopo sì, ci facciamo i saluti e ce ne andiamo a casa. Perché veramente non ho finito le parole. Va bene, dai. Dai, il prossimo brano mettiamo solo di Katie Cat, perché è troppo difficile, non c'ho voglia. Di Fusion Net Label. Ma potremmo fare tipo quel gioco gira la ruota, compone una vocale. Magari riusciamo a dire i titoli un po' più corretti, no? No, non ci riusciremo comunque. Vai. Wall Street. I viaggi del lupo. E con un finale un po' più tamarro del solito, effettivamente devo ammettere, mia colpa, però a me non dispiaceva. Stasera abbiamo ultimato questa puntata di questo venerdì in diretta, perché poi dopo, ovviamente, ripeto, su vari podcast potete ascoltarvelo quando volete, dove volete, se volete. Anche sotto casa mia, mando il podcast su tutto il palazzo. Sì, sì, sì, mi sembra giusto. Si potrebbe fare, è una bella idea. Sai dove? A Gallarate. Eccolo. Mi mancava stasera, ragazzi. Suoni tutti i campanelli e poi ti metti lì con col podcast. Va bene, va bene. Noi intanto, allora, vogliamo salutare Plasman. Spero che ti sei divertito. Tantissimo, grazie. E anzi, quando avrai qualcosa di nuovo, volete fare un giro, noi siamo sempre disponibili. No, tra l'altro volevo chiederti, il vostro sito qual è, giusto per i vostri contatti della vostra etichetta? Non so se l'avevano già dati. Sì, il sito è 51bits.net. Ok. Poi ovviamente pagina Facebook e quant'altro. Siamo soprattutto su SoundCloud anche. Ottimo. Abbiamo tutto su SoundCloud. Abbiamo Bandcamp, insomma, in realtà abbiamo praticamente tutto. Tutto quello che ormai deve avere un'etichetta nel 2019. E poi chi è che vogliamo salutare? Tony, aiutami. Le tue sorelle che fanno... Sì, giusto, che ci seguono i social, i vari social della... Cosa vuol dire IGT? No, su Instagram. Non lo so. Qualcuno me lo sa dire, cos'è l'hashtag IGT o qualcosa? Non lo so, ma so che ci fa fare molte visualizzazioni. Salutiamo IGT, ciao IGT. Non so, adesso... No, no, ma... Poi salutiamo la Sabrina, no? Sabrina, Fabio, che stasera non è venuto anche perché lavora in teatro. Bene, buon per lui. Sì. Poi niente, salutiamo, io saluto la Cri, che non capisco perché è contrariata in questo momento. Saluto Fabio. Ciao. Saluto la Deborah, che ride. Non è morto nessuno, ragazzi. No, io la sento ascoltare i saluti, stavo ancora segnando i nomi, ho detto, magari c'è qualche ragazza, poi la chiamiamo, già l'ho capito. Questa è una notizia. È una notizia. E niente, noi ci sentiamo settimana prossima. Adesso non mi ricordo chi è che abbiamo come ospite. Vabbè, forse... Ma dovremmo avere Robbie Williams, sì. Brad Pitt, Nicole Kidman. Settimana dopo. Io vengo per Vanessa Hughes. Va bene, va bene. Va bene, noi niente, vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao.